coloro che si inteneriscono vedendo una formica trascinare una piccola mollica. Beati coloro che guardando il mare sentono la grandezza di Dio ed hanno paura. Mano di un bambino che ha fame.